Sì, in realtà è stato utilizzato ben prima di noi da 3 ONG israeliane, tra le quali Betzalem, l'ha utilizzato Human Rights Watch, lo hanno utilizzato persino ex rappresentanti delle istituzioni israeliane per descrivere una situazione che andava via via alla deriva e che oggi, secondo Amnesty International, trova una perfetta coincidenza nella definizione che il diritto internazionale dà del sistema e del crimine di apartheid, cioè un insieme di leggi, procedure, prassi, regolamenti, politiche e altro ancora che hanno un obiettivo che è quello di non solo imporre ma mantenere un sistema di controllo e di oppressione e di dominio di un governo sulla una popolazione. Nel rapporto di Amnesty ovviamente queste pratiche vengono anche dettagliate, quali sono i principali problemi? Ma è una serie enorme di violazioni dei diritti umani, dai grossi limiti alla libertà di movimento, alla requisizione delle terre, al divieto di edificare, alla normativa discriminatoria in tema di ricongiungimenti familiari, uccisioni illegali, trasferimenti forzati di popolazione, risorse attribuite in misura estremamente discriminatoria. Questo equivale a un sistema di apartheid che abbiamo ritenuto viga sia nei confronti dei palestinesi dei territori occupati, dunque Gerusalemme Est, Cisgiordania e Gaza, quanto anche per i palestinesi che risiedono all'interno dello Stato di Israele. Voi dite anche che Israele, le autorità israeliane dovrebbero essere chiamate a rispondere di questi crimini. Il crimine di apartheid, che in alcuni casi rilevati nel rapporto si configura come un crimine contro l'umanità, sono reati particolarmente gravi previsti dal diritto internazionale. Quindi, siccome c'è un'indagine in corso da parte del Tribunale Penale Internazionale su fatti avvenuti nella regione riguardo alla situazione dei palestinesi nei territori occupati da un periodo di tempo in avanti, cioè dal 2014, Amnesty International mette a disposizione la sua documentazione, questo rapporto di 280 pagine, e chiede che il Tribunale Penale Internazionale indaghi anche sul crimine di apartheid. Perché invece nel dibattito pubblico della comunità internazionale non si solleva con questa gravità il problema della condotta dello Stato di Israele? Questo è un problema annoso. A me pare che il tema dei diritti umani nella regione sia sottaciuto. Israele ha una serie di alleanze premiali con gli Stati Uniti in primo luogo, con molti paesi dell'Occidente, anche con diversi paesi del Medio Oriente ormai. E questo fa sì che il tema dei diritti umani non sia mai affrontato. Noi abbiamo valutato, tra le cose che abbiamo detto in occasione dell'uscita del lancio di questo rapporto, che continuare a mostrare indulgenza e farlo anche attivamente attraverso forniture copiose di armi non fa altro che perpetuare questo sistema garantendo impunità alle autorità israeliane. Quindi occorrerebbe cambiare completamente approccio a partire dall'istituzione di un embargo nei confronti di tutte le armi destinate a Israele. Spesso nel dibattito pubblico, almeno italiano, c'è anche una retorica che viene utilizzata qualora si critichi qualunque cosa di Israele, che è quella dell'antisemitismo. Sì, è così, è successo anche questa volta. Amnesty International è un'organizzazione antirazzista che condanna l'antisemitismo in ogni sua forma. Continuare ad accusare di antisemitismo chiunque critichi le politiche dei governi israeliani in tema di diritti umani serve soltanto a sviare l'attenzione, a non rispondere alle critiche, così come adottare le denunce sulle violazioni dei diritti umani da parte di gruppi che sì, l'antisemitismo lo praticano, è deleterio in primo luogo per la causa del popolo palestinese. Anche se magari ha poco rilievo, come dire, sugli organi di informazione, in realtà all'interno del popolo israeliano stesso c'è chi appunto è dissidente nei confronti delle politiche del proprio governo. Sì, è vero. Noto anche che il quotidiano progressista israeliano Haaretz oggi ha pubblicato un resoconto accompagnato da un editoriale su questo rapporto di Amnesty International e ne dà una visione non soltanto molto equilibrata, ma critica anche quella che definisce una sorta di ossessione, no? Questo continuo richiamo all'antisemitismo per bollare qualunque critica. Ci sono le organizzazioni non governative per i diritti umani israeliane, Betzalem, Breaking the Silence. Il tutto però rischia di essere messo in secondo piano da questa retorica appunto dell'antisemitismo oppure del gioco che favorisce gli avversari di Israele, ma non quelli politici, cioè i gruppi armati, i gruppi terroristici. E quindi queste voci rischiano di essere un po' sommerse, anche perché l'atteggiamento che il governo israeliano ha nei confronti delle organizzazioni per i diritti umani non è affatto pacifico né sereno.